Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Oggi è il 17 settembre della rinascita della nave Concordia. Dunque ci sono volute alla fine 19 ore per far rialzare in piedi la nave Concordia. Alla fine si è rialzata lentamente grazie alla pazienza e alla preparazione di 11 uomini. Gli 11 uomini d'oro, come li ha chiamati il capo della protezione civile Franco Gabrielli, coordinati dall'inglese Nick Sloan, l'ingegnere che ha diretto le operazioni minuto per minuto senza mai lasciare la control room galleggiante a pochi metri dal relitto. Sono stati loro, insieme ad una squadra di 500 persone, a riportare finalmente in verticale la costa Concordia. Qualcuno come il nostro Stefano Folli e anche altri hanno fatto il parallelismo con l'Italia della politica, sono naturalmente parallelismi metaforici, ma una cosa è certa: è un'operazione importante, un'operazione di dignità. Un'operazione di dignità dopo uno dei momenti più gravi e più vergognosi anche della storia della nostra Marina, un'operazione costata 600 milioni di euro, tutti a carico della compagnia Costa, 610 giorni dopo il naufragio. Cosa ne pensate? 349-238-6666, Raffaella Calandra ha intervistato l'anima dell'operazione Concordia, cioè quel Nick Sloan, l'ingegnere che ha diretto le intere operazioni. Sentiamolo. Yesterday was a big day. No, today is really good to see it finished. Quello di ieri è stato un gran giorno. Oggi è molto bello vedere la nave in piedi. Eravamo preoccupati per la riuscita dell'intero progetto. Abbiamo lavorato 20 mesi, ma tutto è riuscito molto bene ed esattamente secondo le previsioni del progetto. Siamo stati fortunati col tempo, che è stato brutto prima che cominciassimo e ora torna brutto. Il tempo è stata la nostra principale preoccupazione. È andato tutto bene e sono orgoglioso della mia squadra. È la prima volta nella storia di un'operazione di questo tipo con una nave così e in condizioni così. Questo è il primo passo, ma è un passo molto importante. Ora possiamo guardare i danni, fare un piano e valutare il resto. Sono stato molto colpito anch'io dal vedere la nave in asse e sorpreso. Ci aspettavamo ancora più danni all'inizio. Ci sono molti danni allo scafo, ma ipotizzavamo fossero ancora maggiori. Bruno ha scritto sul 349-238-6666 sulla nostra magica lavagna elettronica. A me questo grande spettacolo ha ricordato la mitica la tracimazione controllata del fulgido ministro Remo Gaspari, ricordo quella della Valtellina. Troppa enfasi per la nave, poche parole per i dispersi. Sono d'accordo. Marco da Sondo. L'inutilità dello Stato è dimostrata dal fatto che il recupero di un relitto viene festeggiato dallo Stato stesso come un successo. E poi chi polemizza con i politici e dice fosse stata una decisione presa dai nostri politici, la nave non sarebbe mai tornata in asse. C'è chi però è come Alberto orgoglioso di questi tecnici, speriamo che altrettanta tenacia venga riservata nel punire i responsabili di questo disastro. Concordo pienamente con Alberto, continuate a scrivere 349-238-6666, intanto io vado subito dalla instancabile, infaticabile Raffaella Calandra, che è ormai da ieri che ci sta raccontando tutti nei minimi particolari, che sa tutto nei minimi particolari di questa messa in piedi della nave Concordia. Allora, dall'Isola del Giglio, Raffaella Calandra. Daniele, buongiorno, grazie di questa presentazione, ma devo dire che quando si è qui si vive quello che l'isola vive, e l'isola ha seguito giorno e notte tutte le fasi del recupero di questa nave, e quando questa notte a mezzanotte è stato evidente che la fase ultima stava cominciando, ci siamo ritrovati alle 2 e poi ancora alle 4 con l'esito finito della missione compiuta, e non c'erano soltanto i giornalisti, c'era anche tutta l'isola l'isola del Giglio a seguire queste operazioni, per cui è stato inevitabile, diciamo, vivere giorno e notte senza distinzione tra la luce e la notte. Ora la vediamo qui di fronte a me, la Costa Concordia, con la sua poppa squarciata completamente, che è l'impronta degli scogli, e la sua affiancata anch'essa sventrata dopo 20 mesi. Da qui ripartiranno i tecnici che hanno lavorato per questo anno e mezzo per cercare di stabilizzarla ulteriormente, per far sì che sappia reggere anche alla pressione del mare e dell'inverno, e poi essere trascinata verso la demolizione. Sicuramente, oltre agli effetti simbolici e anche emozionanti che ci sono stati vissuti anche da tutta la gente che ha applaudito Nick Sloan, che abbiamo sentito soprattutto, e tutti quanti i tecnici che per un anno e mezzo hanno vissuto con loro, sono diventati la grande famiglia allargata del Giglio. Sicuramente per l'isola del Giglio questa è anche una paura che si allontana un pochino, diciamo così, che era quella di un danno ambientale molto forte, ed è una impressione che io giro subito all'ospite che è qui con me, che è Mario Pellegrini, che è il vice sindaco dell'isola del Giglio, ma anche l'uomo che quella notte del 13 gennaio 2012, mentre la nave appunto si piegava e naufragava, salì a bordo della Costa Concordia per aiutare appunto i naufraghi. Allora, vice sindaco, la soddisfazione di un'operazione, ma anche quella di un rischio ambientale che si allontana, ma le preoccupazioni per voi non sono finite? Non sono finite, diciamo che abbiamo preso una strada maestra nella risoluzione di un disastro ambientale. Con l'operazione che è avvenuta questa notte possiamo tirare un sospiro di sollievo che la barca non verrà tagliata a metà o fatta a pezzi. Questo ci dà tanto sollievo, però bisogna sempre stare attenti e in guardia, perché la barca è un animale ormai ferito, morto, e si potrebbe anche avere qualsiasi rottura in qualsiasi momento. Ecco, gli obiettivi sono che entro la primavera o comunque prima dell'estate 2014 l'isola chiede che la nave vada via per la prossima stagione estiva, non si sa ancora bene dove, c'è tutta una battaglia tra i vari porti per poterla smantellare, però ecco, stanotte, questa mattina presto, per chi ha vissuto quella notte è stata, ci diceva poco fa il vice sindaco, come rivedere la stessa notte del naufragio. Perché, Pellegrini? Perché quando abbiamo visto in nottata venire fuori la nave, in tutti, ero insieme ai miei colleghi amministratori, ci ha fatto veramente ripensare a quella notte, perché la nave ne è venuta fuori nella sua grandezza, nella sua enorme stazza, e ce la siamo ricordata così adagiata accanto ai nostri scogli, che veniva a morire in quel punto. Ecco, oggi pomeriggio qui sull'isola arriveranno anche i familiari delle due persone ancora disperse, Kevin, il fratello del cuoco indiano, che questa mattina noi abbiamo anche già intervistato ed ascoltato a Radio 24, e il marito della signora indiana, che ancora il cui corpo non è stato mai restituito. Questa sarà ovviamente una delle priorità dei tecnici nel momento in cui potranno salire a bordo della Concordia, quella di cercare i resti dei due dispersi. Daniele. Grazie mille per tutto il lavoro, grazie, avete sentito anche il vento, il tipico vento del Giglio. Raffaella Calandra al 349-238-6666. Intanto sono arrivati decine e decine di messaggi, c'è chi come Cristina da Bologna scrive che adesso che torna tutto in mano agli italiani cominceranno a litigare su dove smantellarla e ci metteranno dei mesi. Marina da Milano scrive che se proprio si deve alludere ad un parallelismo con la situazione politica italiana, allora, dato che l'operazione Concordia ha visto al lavoro un team internazionale, l'Italia dovrebbe dimenticarsi dei localismi e delle polemiche da cortile e pensare che siamo parte dell'Europa e del mondo. Facciamo un governo tecnico, dice un altro ascoltatore, con Premier Sloan. Magari solleva tutto il paese i 1000 schettini che abbiamo a Roma vanno puniti. Chi come Roberto non crede che verrà demolita ma restaurata e rimessa a nuovo sotto la bandiera di un altro armatore. Sloan, presidente del Consiglio degli Italiani, altro ascoltatore, vorrei sottolineare l'internazionalità dei tecnici e concordo nel punire i colpevoli, scrive Elena da Cremona. Dopo la gloriosa impresa ora si rischia di scivolare particolare è ridicola l'italiana per la scelta del posto da demolire. Bella ipocrisia, riusciamo a prenderci il merito anche di idee non nostre, scrive un altro ascoltatore anonimo. Se non sbaglio è stata un'idea di una compagnia olandese a fare tutto. Penso al comandante Schettino, in altri tempi si sarebbe suicidato, dice Luciano. Pierluigi ci invita a parlare dei poveri morti, e questo anche altri, e io sono assolutamente d'accordo, anzi voglio dedicare questa puntata di Italia in Controluce proprio a tutte quelle persone che sono morte, quelle persone che sono morte quella sera e che forse dopo naturalmente molti mesi sono state in qualche modo e devono essere ricordate non tanto negli anniversari ma quanto in un processo giusto, in una verità e in una giustizia che ancora non c'è. Grazie ancora da Daniele Biacchessi, domani ci ritroviamo qui alla stessa ora, alle 13:30.